Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via anche in regione le prove scritte del concorso riservato agli insegnanti di scuola dell'infanzia e della primaria. A San Giorgio di Nogaro trovata una soluzione provvisoria per gli studenti della scuola media dichiarata inagibile. I genitori di alcuni studenti protestano di fronte al municipio. Verso Go 2025 al via a Gorizia lavori di riqualificazione all'interno del parco Coronini, ma anche l'intervento sull'ex mercato all'ingrosso. È morto a 75 anni Gian Domenico Picco, originario di Flaibano, è stato ambasciatore e diplomatico ONU, una figura di spicco della diplomazia mondiale. Disturbi alimentari, consumo di alcol e droghe e social media al centro dell'incontro di oggi e domani a Udine con gli studenti. Tra i protagonisti Andrea Nuzzo, fondatore del An Influencer Tour. Oggi Franco Basaglia avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordarlo vi proponiamo la testimonianza di Giordano Vascotto, che ha passato la maggior parte della sua vita nel manicomio di Trieste. Firmata a Trieste nella sede della regione una lettera di intenti per la costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale tra i comuni del Carso italiano e sloveno. A Pordenone prende il via la 13ª edizione della Design Week con mostre, lezioni e workshop per gli interessati al design industriale. Al via questa mattina dunque il concorso per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Mercoledì e nei giorni successivi sarà invece la volta del concorso riservato al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le domande presentate da parte di altrettanti candidati sono 1269. Il primo turno del concorso per scuole dell'infanzia e primarie si è svolto senza intoppi, fa sapere la dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Beltrame. Nelle 23 aule informatizzate messe a disposizione da vari istituti scolastici si sono presentati 365 candidati dei 469 attesi, l'85%. Nel pomeriggio si riprende con quelli del secondo turno, in arrivo da e fuori regione. Uguale per tutti la prova scritta con 50 domande a risposta multipla da risolvere in 100 minuti sulla piattaforma ministeriale. I quesiti, novità del concorso, vogliono testare l'attitudine all'insegnamento e le conoscenze didattico-metodologiche. Quelle sulla disciplina saranno invece valutate agli orali, che si conta di poter avviare subito dopo le prove scritte del concorso per medie e superiori, in programma dal 13 al 18 marzo. Spicca intanto il numero basso di domande presentate in Friuli Venezia Giulia, richiamato dalla stessa dirigente Beltrame. Per infanzia e primarie sono state 1269 per 403 posti a bando, di cui 11 cattedre comuni e 4 per il sostegno per le scuole dell'infanzia, mentre per le primarie sono 173 posti di sostegno e 215 comuni. Per medie e superiori invece 4.829 le domande presentate per 607 posti disponibili. Considerato che più di qualcuno può aver fatto domanda per più ordini di scuola, gli aspiranti insegnanti sono di meno, rimarca Beltrame, osservando che comunque rispetto alle altre regioni il rapporto domande posti disponibili è più basso. A conferma aggiunge che l'insegnamento non è più una priorità per i nostri laureati, è un problema di retribuzioni basse, precariato diffuso e difficile reclutamento degli insegnanti, afferma il segretario regionale della FLCCGL Gargiulo, secondo cui i numeri di questo concorso annunciano soprattutto il disastro nell'area sostegno, che conta un numero nullo o esiguo di domande. La conferma per Gargiulo del fallimento delle politiche di specializzazione del personale, che vedono concorsi onerosi e pressoché impraticabili, e ciò a fronte di un fabbisogno crescente. 5.000 quest'anno, ricorda Gargiulo, gli alunni che necessitano di sostegno. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. A San Giorgio di Nogaro i genitori di alcuni studenti hanno protestato di fronte al municipio contro la decisione di chiudere la scuola media, dichiarata inagibile dal sindaco mercoledì scorso. Dopo due giorni di DAD, oggi è stata trovata una soluzione provvisoria per far ripartire le lezioni in presenza. Davanti al municipio di San Giorgio di Nogaro protestano i genitori delle classi rimaste oggi senza edificio scolastico. Le medie Nazario Sauro erano da anni utilizzate con le dovute cautele per alcune criticità sismiche. Il 24 gennaio però gli uffici tecnici del comune rilevano alcune problematiche e dopo un incontro con la dirigenza, il giorno dopo, il comune dispone sgombero e chiusura dell'edificio fino a nuovo ordine. A pochi passi, cinque classi hanno trovato sistemazione provvisoria alla primaria, parte dello stesso comprensivo. Da domani, anche le due classi senza tetto sulla testa andranno a fare lezione in un centro civico a 2 chilometri di distanza, in attesa che si liberi uno stabile della parrocchia. Arrabbiati i genitori che si chiedono: «E da settembre dove andremo? Aspetteranno il 31 agosto per dircelo?» Alcuni dei ragazzi stanno andando a fare educazione fisica all'aperto. C'è una palestra agibile, ma non si può utilizzare perché manca il personale ATA per garantirne la pulizia. I collaboratori scolastici, infatti, devono ora dividersi tra più plessi, indica Gaetano Marino, dirigente vicario dell'Istituto Comprensivo. L'opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale, cosa che non avviene da dicembre, e contesta il sindaco l'aver scartato l'idea della passata amministrazione di ristrutturare l'edificio, optando invece per la costruzione di una nuova scuola, dal costo di oltre 7 milioni di euro, al di là delle capacità finanziarie del comune. Loro erano lì dal 2018 e non hanno fatto assolutamente nulla se non perdere un finanziamento per l'adeguamento sismico, si difende il sindaco Pietro Del Frate. Con la regione abbiamo aperto una interlocuzione. Sorpresa però è stata espressa dall'assessore regionale dell'infrastruttura Mirante, che indica in una nota come la richiesta finanziamenti sia stata prospettata alla regione solo da pochi mesi, oltretutto senza mettere in luce una situazione di urgenza tale da portare all'ordinanza di sgombero. In comune ricevuto intanto questa mattina rappresentanti dei genitori. Tra disservizi e servizi garantiti, in una sorta di staffetta, proprio accanto ai locali del municipio in cui fanno lezione altre due classi, le terze medie, un impiegato segnala con un avviso che le poste, chiuse a San Giorgio da 6 mesi per lavori, riapriranno domani. San Giorgio di Nogaro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora la vicenda che contrappone la comunità islamica di Monfalcone all'amministrazione comunale che ha deciso di impedire l'accesso, per motivi di sicurezza, a 2 luoghi di culto utilizzati dai musulmani che vivono in città. Ieri è stata annunciata anche un'azione di protesta che dovrebbe consistere nel radunarsi per la preghiera nella piazza del municipio in attesa che sulla questione intervenga il Consiglio di Stato. Poco fa la sindaca Cisinta ha convocato per le 15 una conferenza stampa per importanti comunicazioni sui luoghi di culto. La Polizia di Stato di Udine ha fatto arrestare all'estero 3 latitanti destinatari di ordini di carcerazione. In Germania sono stati rintracciati 2 cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi dalla Procura di Udine. Si tratta di un 21enne afghano richiedente asilo in Italia, arrestato dalla Polizia di Udine per un furto di ingente valore su un'auto in sosta. Arrestato sempre in Germania un 49enne cittadino ghanese, ricercato perché deve scontare 2 anni e 1 mese di reclusione per violenze domestiche perpetrate per diversi anni in danno alla compagna quando i due vivevano a Udine. Inoltre è stato estradato in Italia un cittadino georgiano ricercato per il furto di apparati telefonici a Trieste. A gennaio 2024 le assunzioni in Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 33.000, in crescita del 14% rispetto a gennaio 2023. Si tratta di un aumento complessivo significativo, considerando che a gennaio il numero di assunzioni mostra un volume complessivo secondo solo a settembre, quando sono molte le assunzioni nel settore dell'istruzione per il personale a tempo determinato. A rilevarlo, l'Osservatorio regionale del mercato e delle politiche del lavoro. Gorizia si prepara a diventare la capitale europea della cultura insieme a Nova Gorizia. Oggi partono ufficialmente 2 cantieri, uno nel Parco Coronini per un intervento di riqualificazione e uno nell'ex mercato all'ingrosso. Il Parco Coronini-Cromberg avrà presto un nuovo volto, un volto rinnovato dopo 150 anni in cui sostanzialmente non si sono fatte opere di ristrutturazione della sua pianta botanica interna, e a ripensare sostanzialmente il Parco Coronini, a ridargli vita. Ci ha pensato l'architetto Giulio Valentini, che a capo del progetto finanziato con risorse del PNRR, circa 1.700.000 euro, per fare cosa, chiediamo all'architetto? Per fare cose che assieme ai miei collaboratori abbiamo pensato, proprio quello di garantire un futuro al parco, quindi da una parte ricreando le prospettive e tutto quello che la crescita un po' incontrollata aveva causato, dall'altra però anche portando a un rinnovo sia del verde, gli alberi si sono ammalati, sono morti, noi dobbiamo sostituirli, ma anche tutta un'altra serie di elementi che caratterizza il parco, che sono i sentieri che verranno restaurati, la piscina, 1000 altri elementi che connotano e danno bellezza e ricchezza al parco, che appunto verranno ristrutturati. I lavori dovrebbero terminare il prossimo autunno, probabilmente a novembre, ma fa notare l'architetto Valentini, gli effetti si vedranno nel corso degli anni, proprio perché bisognerà attendere la crescita delle piante più giovani in particolare. Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto a 75 anni Gian Domenico Picco, ambasciatore friulano ed ex diplomatico ONU. Originario di Flaibano, viveva da tempo negli Stati Uniti. È stato una figura di spicco della diplomazia mondiale. È stato uno dei friulani più illustri degli ultimi tempi a livello internazionale. Gian Domenico Picco, il diplomatico che tra gli anni 70 e 80 prestò servizio all'ONU partecipando a missioni di pace nei Balcani, in Afghanistan, in Medio Oriente, è morto dopo una lunga malattia a 75 anni negli Stati Uniti. Originario di Flaibano, tra i negoziati che aveva seguito anche quello che portò alla pace tra Iran e Iraq e il rilascio di 11 ostaggi occidentali rapiti in Libano. È stato consigliere personale del segretario generale delle Nazioni Unite e per il suo impegno ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Bush padre. La sua azione diplomatica fu raccontata nel 1999 nel libro Man Without a Gun, Uomo senza la pistola, parafrasando la definizione che aveva dato Pérez de Cuellar, il soldato disarmato della diplomazia. Con Gian Domenico Picco ci lascia un autentico gigante della diplomazia mondiale, una figura che ha dato grande lustro alla nostra regione, ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ricorrono oggi 100 anni dalla nascita dello psichiatra Franco Basaglia. Abbiamo incontrato Giordano Vascotto che, dopo aver passato la maggior parte della sua vita nel manicomio di Trieste, grazie alla rivoluzione di Basaglia, oggi è un cittadino con gli stessi diritti e doveri di tutti. Ha raccontato la sua storia al suo amico, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, che era collaboratore di Basaglia. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Parole di Giordano Vascotto, che di nuovi inizi ne ha visti tanti. Li racconta tutti al suo amico, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, allievo e collaboratore di Franco Basaglia. Il signor Giordano è entrato nel manicomio negli anni 50, all'età di 7 anni. I bambini, alcuni semplicemente figli di mamme internate o abbandonati dai genitori, finivano al padiglione Ralli, l'istituto psicopedagogico. Ralli è un istituto dei deficienti, la diceva. Per i bambini? Sì, erano calcolati deficienti, subnormali, ritardati, non so, perché erano anche ragazzi mongoloidi, come che oggi non si dice più, si dice naut, come si dice naut? Down. Down, sì. E dopo mi viene il manicomio, ho fatto anche l'elettroshock nel padiglione accettazione uomini, poco ne ho fatti per fortuna. Avevo 14 anni. E avevo nel 68 che ho fatto. Cosa ti facevi ti in manicomio qua? Lavavo le macchine dei dottori e degli infermieri. E poi? Dopo andavo in giro così, qua e là. Dove ti trovavi il lavoro dopo? Dopo il lavoro mi tira sulle maniche, sono in zona industriale. Ho lavorato alla Bouton Vecchia Romagna. E sei tornata a casa da tua madre? Mia mamma gli era malata di mente anche ella, perché ella è nata del 4 e nel 1910 la cacciapà la spagnola e la sestata ilesa. Che mi guardava. Come sei andato quando sei uscito da San Giovanni? Da San Giovanni? Io lo so, ma te lo devi ricordare. Mia sorella di Sistiana. No, allora, te capisci, sono andato in città, ho fatto la domanda a PDATP e mi ha dato l'HP e l'appartamento. Cos'è oggi qua questo posto? Come si sente? Con 6 ricordi. E volessi, sono morto, che mi seppellissi qua, che mi faccio, ecco quel che volessi, che mi seppellissi la tomba. Questa è una bella idea, questa può magari essere. Era una bella tomba, qua se giace Giordano Vascotto, povero, che ha avuto tutto dormono, e di più. Dormono sulla colonna. Vediamo il tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste Udine 11 gradi, Pordenone 12, Gorizia 10 gradi e mezzo, a Tolmezzo 8 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 5 e mezzo, Piancavallo e Tarvisio 4 gradi e mezzo, a Sappada 1 grado e mezzo, sul Monte Zoncolan 0 gradi, sul Monte Lussari 5 decimi di grado sotto lo zero, a Lignano 11 gradi, a Grado 10. Le previsioni: oggi pomeriggio avremo cielo in genere poco nuvoloso, sulle prealpi non è esclusa qualche locale debole pioggia sparsa, di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli. Il garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, con l'associazione Un'altra Storia, promuove la campagna nazionale itinerante Influencer in Tour per affrontare con i ragazzi delle scuole superiori i temi dei disturbi alimentari, dell'uso e abuso di alcol e sostanze stupefacenti, nonché della sostenibilità ambientale. L'appuntamento è per oggi e domani all'auditorium della Regione di Udine. Si parla dei disturbi del comportamento alimentare, dall'anoressia alla bulimia, anche in vista della giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro questo tipo di disturbi che ricorre il 15 marzo. Disturbi che compaiono sempre prima, si segnalano casi già all'età di 6-7 anni e il loro numero è ancora maggiore rispetto ai livelli di prima della pandemia. Abbiamo chiesto ad Andrea Nuzzo, il fondatore dell'Influencer Tour, perché è importante parlare di questi temi attraverso i social media. Il valore aggiunto è raggiungere un numero di persone molto molto ampio, ma soprattutto farsi ascoltare, perché quello che noi notiamo con i ragazzi è che loro si pongono in un certo modo nel momento in cui vedono che l'interlocutore, se non loro coetaneo, è comunque molto vicino alla loro età, ma soprattutto parla il loro stesso linguaggio, il linguaggio di TikTok, il linguaggio di Instagram, e quindi attraverso una comunicazione che si basa su queste piattaforme, sui meme, insomma, utilizzando quelle che sono delle realtà vicine ai ragazzi adolescenti, si può effettivamente attirare la loro attenzione e colpire nel segno lanciando appunto dei messaggi importanti. Quali sono questi messaggi? Ci fa un esempio? I messaggi sono vari, dipende ovviamente dalla singola giornata. Comunque, trattando ad esempio quelle delle prossime date a Udine e Pordenone, affrontiamo il tema degli disturbi alimentari, del benessere psicofisico, delle dipendenze sia da alcol e da sostanze, che anche delle dipendenze che spesso vengono sottovalutate ma che riguardano molti giovani, ad esempio la dipendenza affettiva, come la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la consapevolezza digitale. Ogni data ha un tema di riferimento in base al quale intervengono, oltre a noi influencer, anche dei testimonial, come in questo caso, nel caso delle dipendenze e dei disturbi alimentari, Flavia Rizza, una giovane che ha sofferto di questi disturbi ma che ha superato dei momenti difficili trasformandoli in forza, perché ora il suo lavoro è proprio quello di spiegare ai ragazzi che ne soffrono come superarli. Sta scrivendo un libro, quindi una persona che ha vissuto quello di cui noi parliamo. Firmata a Trieste nella sede della Regione una lettera di intenti per la costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale tra i comuni del Carso italiano e sloveno. Dopo quello di Gorizia e Nova Gorizia, che ha portato l'assegnazione della capitale della cultura, è pronto a nascere un nuovo GECT, cioè un gruppo europeo di collaborazione territoriale che riguarderà il Carso. 17 comuni sloveni e italiani, comprese la città di Trieste, che si impegnano per stabilire una piattaforma di cooperazione per lo sviluppo e la valorizzazione dell'area del Carso. Si va da progetti per contrastare la fragilità ambientale, soprattutto sul piano degli incendi e delle inondazioni, a ipotesi per accompagnare la crescita del turismo. I 17 sindaci coinvolti hanno firmato da Trieste, nella sede della Regione, la lettera di intenti per avviare l'iter burocratico che dovrà essere approvato dalle rispettive amministrazioni entro fine aprile. A quel punto servirà l'approvazione di Roma e Lubiana e poi quella europea. Verrà costituita un'assemblea con metà dei membri scelta dai comuni italiani e metà dai quelli sloveni. Alla presentazione dell'iniziativa anche il ministro sloveno della coesione e sviluppo regionale Aleksander Jevšek e quello per gli sloveni all'estero Matej Arčon, che si augura che accordi come questo porti la costituzione di un posto fisso nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per membri della minoranza slovena, mentre Paolo Petizziol del GECT di Gorizia ha fornito i consigli partendo dalla sua esperienza. Non limitarsi alla burocrazia, ha detto, ma occorre essere uniti anche nelle idee. La cosa più importante, ha ricordato David Pizziga, presidente del GAL Carso, è che i progetti siano davvero comuni, che sappiano esaltare le caratteristiche specifiche di ogni territorio, dalle terme a Monfalcone ai cavalli di Lipizza, con il forte traino di Trieste. Una collaborazione che dovrà anche fare conti con le conseguenze della trasformazione del territorio e dell'economia, come l'aumento dei prezzi delle case e la stagionalità dei flussi, e per cui dovrà essere preparata per tempo con l'obiettivo di replicare il modello di Gorizia a Nova Gorizia e, perché no, ottenere in futuro anche per Trieste il titolo di città europea della cultura. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone comincia la 13ª edizione della Design Week con mostre, lezioni e workshop per gli interessati al design industriale. Il design come leva per la candidatura a capitale europea della cultura. Da oggi al 15 marzo Pordenone ospita la 13ª Design Week, manifestazione che unisce imprese, mondo accademico e territorio. Un legame rafforzato anche dalla nuova sede presto a disposizione del corso di laurea presso il ribattezzato Valle Center. Giuseppe Marinelli è direttore scientifico della Pordenone Design Week. Il rapporto fra il sistema formativo e il sistema produttivo del territorio è cresciuto enormemente. Adesso abbiamo lanciato una sigla importante che è Città del Design, che darà un enorme sostegno, un enorme contributo alla candidatura del Comune di Pordenone a Capitale Europea della Cultura. Noi stiamo lavorando dentro un comitato organizzativo a far sì che questa città viva 365 giorni all'anno di iniziative culturalmente di alto profilo e significative per lo sviluppo del design, ma design come utensile sociale. 5 giorni di workshop con 6 aziende e 200 studenti, una mostra diffusa in centro città, lezioni in vetrina il 13 e 14 marzo, venerdì, serata conclusiva in ricordo dell'imprenditore Marco Camuccio. Stamani l'inaugurazione ospite Carlo Castiglioni, che si rivolge così agli studenti di design. Castiglioni, presidente della Fondazione Achille Castiglioni di Milano. Li inviterò a ritornare un po' a usare le mani, quindi andare a vedere quello che fanno gli artigiani che qui oltretutto in questo territorio sono ancora presenti. La seconda cosa è quella che volevo sottolineare, come il design deve essere raccontato, e il racconto è un aspetto importantissimo per far capire anche a quelli non addetti ai lavori che cosa sono gli oggetti di design. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Va alla poetessa Antonella Anedda per la raccolta Tutte le poesie, edita da Garzanti, la quarta edizione del premio Umberto Saba Poesia. La consegna è in programma a Trieste lunedì 25 marzo alle 11 nella sala Batzlen di Palazzo Gopcevic. Seguirà l'incontro con la vincitrice, al quale prenderanno parte i componenti di giuria del premio Saba. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Livia Liberatore. In regia, per la parte tecnica, Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.